Luisa, aiutaci tu. No, la portante c'è. Poi ti ribò un po'. Gigino. Cappasa, sono sempre qua, sempre facendo qualche PL, qualche cosa, sto saltando, ma sono sempre in occhio. Cacca di trote, buona sarà. Ma vedi, i picci ti muoiono, direi. Cappa che ci vedo, io ci vedo anche al buio, capito? Se la fumo un giorno di quella dove la trave si passa in occhio. Bene, ci vedo io. Io ci vedo bene, a te lì questo si sta chiamando me, sta facendo attenzione, sta lì. Vai per Spalviero, l'amico che chiama l'Italia, l'amicaccio che chiama l'Italia, vai per Spalviero. Ah, però se si arrivi, mi lascia il tempo di arrivare a casa che attacco il microfono. Ma che cosa? Il PC con lo stacco, la più 4. Preparati, mi lasci mi dai sigaretti e ti vado in risate. Te lo ricordi appena la musata per Andrea? Vai, te la faccio uguale io stasera. Luigi! Va, verrai qua! Faccio la voce per Andrea. Perché ormai è poco lascio, beh. Io ormai non puoi più parlare, già lo sai moltissimo. E va bene. Sì, ma fai dimmi, cazzo, che non ti comprendo, c'è 9,80. Il canale è esagerato, sto facendo 50 modulazioni sopra. Ma non c'è il deporto, la moto è nata al cofano. Ma la moto è nata al cofano, hai butto. Ah, la moto sotto al cofano hai messo. Luca. Ma tutti i parati sono in mano a lui. C'è anche Gianni qua, già. Io gli ascolto, non c'è problema. Ciao Maria Luisa. Buonasera, oggi c'è molto QRM, oggi non sei forte come al solito, c'è molto QRM. E ti ascolto più basso di da più giorni con QRM mischiato. Comunque ti capisco, c'è anche un po' di propagazione stasera, ecco il caldo qua, deve essere questo caldafoso, cosa è questa propagazione? Non è mio, se non si può un po' di maestrare, in questi giorni siamo fregati. Lo sai cos'è, ne porta di sabbia questo vento caldo, mamma mia. Stasera in moto non si poteva stare, aveva varia bollente, non caldano, bollente. Sai dove comincia a esserci un po' più di freschetto? Al video del discorso della volta, sono i biliardi, dove c'era l'aria di mare, un po' lì era più fresco, ma prima bollivi il moto. Io sono in motel, c'è un caldo. Ciao, Pere, mi hai sentito anche a te. Ciao, dai, si sta scaldando. Perché così? Mario Masse, la guardia Mario, buonasera. Ciao, Claudio, tutti qui, la gara è qui. Cos'è? Gara è qui, tutti la gara è qui, tutti la gara è qui. Ciao, Gianni, tutti i giorni. Ecco, io anche mi sono preso perché la città è saldata, così, e vabbè, ma così è tutto così. Ma tu hai atteso, ma chi ha inteso a Teresa c'è entrato, ma mi gioco prima io, Gianni e Teresa, o Giavetta. Allora poi ho trovato un fiocco, non è durato, un caccia a vite. Ah, io vabbè, quindi c'è una moto. Vai, te l'ho visto che c'è il mignolino con l'unghia lunga. Allora, come te lo loro già io, ma mi stava a vedere i vidi. La prima volta l'ho visto, mi sono anche trovato male. E lì dal figlio di Andorra, però non ti offende, scusa. Ma poi non te la tagli quell'unghia, cazzo, non ti sfea. Però che quest'unghia mi serve per lavorare mal di tomme. Ma come non vuoi tu batti i gatti lui? Ciao Mario Mascher, brutto che non sei altro. Ma io ho visto che c'è caldo, ci organizziamo un motor raduno stanotte. Brutto, riprendi, brutto. Ma che Luca, no, l'ho accompagnato alla barra, a barra sua, detto. Ti prego, si agita Mario Mascher, non a te. Vai Mario, brutto, Mario, brutto. Vabbè, io sono venuto. ieri, dritto alla chiamma, ieri in frecchetti. No, io ti aspetto, tutto al buio qua, che fa la luce qua? Luce c'è una rata al monte. Mi ha pagato la luce. Che si occupa per te, Dio, qua? E qua vicino è tutto buio, poi non si capisce nulla, cazzo, cazzo, cazzo, la montetta, mamma. Cerca di mettere l'allarme alla moto. Cavolo, la stessa casa. Attenzione Pluto. E beh, Gigi. Ehi Mario, mi ricordo a Fattucci, bomba via. Gigi no, soldato l'hai col PN. No, non ho saldato nulla, salterò tutto domani se ne ho voglia, non mi ce la fatta. No, quello è messo tu, si è staccato, capito. Ma quello corto? Perché è corto? Quando sono corti possono fare quel problema lì, lui. Di solito quelli si usano corti dall'accordatore, per esempio, come era l'altra volta, lasciarlo lì, ma si sai, tira lì, ti dira, è troppo corto. E vabbè, domani mattina lo facciamo, ne ho un altro io. Vabbè, già ne hai il capo tu. E io ho voglia che ne ho voglia, dai, no, ne ho messo un altro normale, guarda, un cavetto normale va bene lo stesso, di quelli normali che ho io. No, quello, ho detto, ma perché picchia, toccavo, sembrava non toccavo la scatola, invece come muoveva, poi quella cosa che ci toccava il PL dentro, infatti come l'ho staccato ne è uscito. In quel PL lo stacchi, quello lì è corto, che non ti serve, staccami quel PL e li metti da qualche altra parte, lo facciamo più lungo. Sì, ma ce l'ho... Però dai, un altro me lo faccio comunque, un altro me lo faccio e già ce l'ho, ce ne ho voglia di capo, dai. Me ne faccio un altro spettone invece di farlo così, lo faccio da quello da questo era 50, doveva essere al limite 45, invece è di misura delle 50 visto. Ne faccio da. Allora, guarda, lo faccio da 90, cosa me ne ha scusato davvero ma stesso. Sì, a voglia va bene. Lo fa da 90, lui da 45 è corto, fallo a 90 così ti serve anche per l'altro pezzo. Aspetta Mario che rilancio a Franco invece è arrivato. Fra arrivato sì. Franco invece è già arrivato. Riprendi Mario. A Mario fa vedere, Mario mi ascolti, io non lo sento a Mario Fra. Comunque se mi ascolti Mario buonasera. Avete vedere in lui. Lui ma non lo senti a Mario Max? No, negativo, sento questo da fuori che sta parlando, che questo che sta modulando da fuori è sempre tu. Tu gatto bottato la Maria, io è attrinza di gatto. A che punto sei con i lavori, Mario? Mario? Questa volta sono con i lavori da scappare e mi ha andato in giro. Sono rimasto a metà. Comunque da sempre che adesso, va. Lo so, io ci ho portato le qua nella stanza e poi ne ho una salone, una camera, se no me la nutre. Asio Mario, tira fuori la bestiolina e mettila. Come è nata la gadria, buona è nata la banca, momentaneamente, muduli con quella, cazzo, perché col portatile non si sente Luigi. Io lo sento quando si stanno tutti questi strani, questi stanno modulando da fuori, che mi arrivano più forti loro di lui, di Mario, capito? Se no, quando si stanno tutti questi qua, appena lo sento a Mario, però come modulano questi qua non lo sento più. No, qua c'è il segnale più o meno tuo. Più o meno il tuo, già lo sento io, poi arriva 9:20, non fanno niente, però magari da te è più coperto e con quella potenza non ce la fa. Proprio rum. Ho visto un chi? Ho detto, visto che c'era questo caldo, potevamo organizzare un motto raduno di notte. Buonasera. Buonasera. La punta. Topolino. Thank you. tempo. Guarda, guarda. Vabbè, io vi saluto, mi sono dormendo la gallina, siamo domani mattina al casino. Sento a Franco, salutamo, ciao Gianni, Mario, ciao Luigi, chiunque fosse in ascolto, Luca e tutti quanti, dai. Luca, ci vediamo domani mattina, non tardate, eh. Dai, tranquillo, che non c'è problema, domani mattina, allora, qual è che abbiamo letto, dai. Ciao, non mi sei... Ciao, senta Foggigio, sei Fapperino. Ciao comunque, ciao Claudio, ciao Luca, ciao Gianni, chi c'è, Franco, Mario, se mi ascolta. Ciao a tutti, dai. Ciao Luigi, buonasera. Ciao Fra. va, ciao Luca, dai. Raffa di tutto, raffa di il tuo microfono, raffa di io. Controllo io così vedo con QRM che non veniva a dire. Davvero? Dai, dai, io mi sono andato su a tutti. A tutti. Ciao, noi ci sentiamo, dai, è tutta domani. Che mi domani? Mi raccomando, un attimo. Va bene, va bene, Franco, io ti guardo. Yeah. la scoccia nel cellulare che può chiamare. Vola con 347 in essa. Luca, mi che ci sta chiamando? Infatti. Vabbè, il problema della vita è una brutta piace, no? Cosa? Avanti. Ma adesso me lo metto la furgone della vita quando viaggio, grazie. Capito? Sì, avanti il break sul 10. Avanti il break sul 10, chi è? Devo dire una gana. Fermo la trave sul 10, avanti. Cappa cappa. E avanti, chi sei? Avanti. Ti sento, avanti, chi è? Dove sei? Dove? Che zona? E anche io sono a Montarosello. Anche Franco, avanti Fra. Qua sei 9 più 30, ora che è un po' bassina però. Vicino alla chiesa. Luca. Luca. Si conferma, dimmi te. Ti ha spostato un attimino Franco, è andato dentro. Via, ok. Ma che è sul bip? Il bip. Tra le vane il bip. Perché? Dato che c'è il bip, Luca. Adesso ce l'ho. Adesso no, è fastidioso, non ci occupi adesso. Cosa volevo dire? Boh, non metto più. Questo qua siamo tutti al buio. E qua già c'è la luce qua. Boh, tutta la via, no? Aspetta un attimino, volevo sentire questo amico dal monte. Ma dove sei a casa o in macchina? Ascolta, è proprio vicino alla chiesa, sì. Sei vicino a me, quanti sei più vicino a Franco, cioè a Teresa, dai, che a me, dunque io sono più o meno lì, dai. C'è l'antenna sul tetto? Ah, cappa. Dunque la sta a parte Luca, dai, salutoni, ben sentito, noi ci siamo sempre qua, sul canale 10. Siamo più o meno 5-6, dai, che modulano qua questo canale. Dipende, dipende. Anche col tempo arriviamo anche, non so, Bari, Milano, Roma, Napoli, Spagna, Francia, Germania, dipende. Dipende dalle giornate. Poi se mi vuoi parlare... Qua in Sardegna, Alghero, Porto Torres, Stintino e così via. Dipende sempre dalle giornate, dai. Dipende dalle giornate. Ma sei novellino la prima volta? Ora aspetta, devi aspettare che termino io di parlare. Poi riprendi tu, altrimenti non ci capiamo. Dipende, d'estate si fanno i collegamenti, perché per via del tempo, diciamo, il caldo, ecco, ti porta a fare questi collegamenti qua. E che antenna devi piazzare? Sul tetto la devi piazzare l'antenna. No, assolutamente. Dipende, ma la piazzi, e se usi watt normali, tipo quelli del baracchino, sono 5 watt, più o meno, non credo che disturbi, perlomeno così disturbando stai a casa tua. E vedi un po', vedi un po'. Avanti, c'è Franco, Teresa, buh. Ehi, a chi è l'amico? Non so. Come si chiama? Legata con l'altro telefono. No, se non ha detto il nome. E perché non lo dice? Franco hai detto. Allora mi stai modulando? No, non ti ho chiesto dove lavori, da che zona stai modulando? Monte Rosello Alto. Sì, io sono al Monte, Monte Rosello Alto. Ehi, ehi, ma sei in BL o sei a QTH? Vabbè, ti ho chiesto se eri in macchina o a casa, vabbè, non fa niente, va bene, tutto qua, va bene. Anda bene Meda. Riprendi Luca. Aspetta un attimino, guarda, è successo, aspetta. Dopo mi corco, ma non lo senti tu a questo Franco? Non la senti, tu senti il letto. Franco, l'ascolti tu a principessa? Franco? Attenzione Franco. E tu, ma che Franco sei? Perché qua ce ne sono tanti Franco, eh. Va bene, allora ti chiamiamo Franco M. Ascolta, tu l'ascolti tu la principessa, la senti? Sì, sì, fratello di quello che c'è nel ruota sotto, non dire cognome, sono Luca, io già ho il ragazzo qui. Capito, Gianfra? Luca, insomma, fratello di Antonello, avanti. Vabbè, io sto già un altro tipo di apparecchio. Già, c'è tutto un fratello lì, Alessandro, già, hai capito chi sono, dai. Squillante come radio. Ho detto, ma forte mi senti, troppo alto. Allora, aspetta che ammasso qua. Ho detto che quell'apparecchio non esce bene come deve uscire. Bisogna dare un'occhiata, una controllatina. Se capita, magari che passo da quelle zone lì, vedo un po' di sistemarlo io, dai. Devi aspettare sempre che termini io di parlare, non è una telefonata questa. Ha delle manopole da avanti questo apparecchio e mi dici quanto c'è scritto in ogni manopola. E basta, make gain, RF gain, niente. Quando parlo io sai qualche cosa, qualche si accendono delle lucette. Comunque sei più vicino a Teresa, dai a me, vai te. Ehi, ehi, ma vicino a me? Sì, molto vicino a te. Molto, un bel, un bel. Un bel, un bel, un bel, un bel, un bel. Un bel. Siccome te la più forte di me. No, no. Cioè, la radio ce l'ha, però è bassa, la radio non ne ha, capito? Cioè, ne sto tirando fuori benissimo, però poca radio. Vabbè, quando lo trovo io, glielo spiego io come si deve comportare, eh. Insomma, impara qualcosina, perché è la prima volta, non so cosa dire, allora, sai che il cognome non si dice, ma noi lo diciamo perché ci conosciamo, ma... lui ha detto così, sono Gianfranco e cognome, non va bene, ok, va bene, va bene. Gianfranco ce l'ho da un bel po' di anni il baracchino, l'ho sempre avuto. Ma lui parlava altre volte? No. La prima volta? Sì, a quanto pare io ho mai sentito, la prima volta Gianfranco, vero? cosa, ma ti volevo dire, che marca è l'apparecchio? General Electric, no, dovrebbe avere un nuovo apparecchio, non so, Midland, Intec, Airbex, certo facendo un paio io, più o meno. Magari parlare così va bene, organizziamo l'antenna, facciamo vedere cosa devi fare, perché secondo me è piazzata, la puoi anche bruciare il baracchino. No, lì vuole sì 12 volt come alimentazione, però amperaggio minimo lì ci vogliono anche 3 ampere basta, no? Lì sicuramente se guarda un telefono, un caricabatterie di un telefonino va tipo da 1 ampere. Sì, ma è stato alimentato, dimmi te. Metto Franco a provare col microfono. Il mio? Quello che gli ha attrezzato. A me? Torra, perché te non l'ha sentito? No. Aspetta. Oh, Teresa. Eh? Ci metto la batteria adesso, poi un caso. Allora, ci sei? Ecco, questo qua è la voce del bambino. Poi, aspetta. Questa qua cambia per la pera. Questa qua cambia. Poi cambia così. È la voce da orco. Ecco qua. Che bello. Che bello che è. Io gli avrei capo con voi, lo provi. Se a volte non avrà potuto un video, gli ho provato, ma non mi sei cagata. No, non è una cagata. È bello lui. Mi sta pisciando da vedere. No, non importa, no? Sì, ho detto

diciamo che Sassari lo copro tutto, che sono i di Sassari? Magari sono un po' coperta. Sicuramente tu mi sentivi, ma io... perché c'erano anche dei disturbi, Gianfra. Sono dei disturbi che molte volte sono alti e siccome tu non sei attrezzato bene di antenna e non arrivi, ecco, ma dicevo, non c'è più calma, allora passi pure che arrivi. Bisogna vedere da come impiasti l'antenna, ci sono tante cose, dai. Comunque il segnale qua, ripeto, è fortissimo, come io arrivato e tu arrivi a me, la radio che non va, è molto bassa. Sicuramente anche Teresa, vai te ne prova. Cosa? Fai un passaggio, accendi tutti i led. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, attenzione, attenzione, mi senti Franco? Cosa ha detto lui? Ha detto, quando parli tu si accendono tutti i led. Ah, boh, e quando parli tu? Sì, è lo stesso, se ce l'ho attaccato a mettere, cosa ti posso dire, giusto per vicino alla chiesa, dai, è vicino a me, vicino a te, ma è molto più vicino a te che a me. Vabbè. Lui da casa tua vede l'antenna, lui da casa sua vede la tua antenna. La vede? Sì, sì, si vede, come? Lui è praticamente, che piano sia, all'ultimo. Io sicuramente la vedo l'antenna, perché la vedi. La mia lui vede? Sì, la tua, sicuramente anche la mia, lo stile ma già la vede. No, non so questo. Non so. Sì, ce l'abbiamo uguale, io e Luca. Sì, ce l'abbiamo uguale, Gianfra. Aspetta che cambio il microfono, dai. Non è mezzanotte, Maria Luisa. Ora non ne ho sonno, dopo mi corico. Tu coricati, sì? E bumbo, addormentata. Ancora no. Ah, adesso. Hola, hola. Oh, Gianfranco. Questo qua è... Questo malacchino qua è uguale a quello di Teresa, uguale identico, microfono e malacchino. Vabbè, tu lo conosci, Typhon, Lafayette Typhon. Ne ho quattro malacchini, c'ho questo qua Typhon, poi ne ho un altro Lafayette Boston e due Midland. Alla 34 e alla 68. Ma appena si è buttato la mondezza. Guarda che qua l'ho portato, non si fa nulla. Mamma, sì, vabbè, visto che tu sei vicino, magari scambiati due chiacchiere, come ci puoi parlare, come puoi parlare con Teresa, con qualcuno che è qua in zona, però vai oltre. C'è tipo di lontananza. Fanno 1,5 watt, ma non serve a niente Gianfra, non serve a niente, tipo quelli apparecchietti che c'è tuo fratello, quelli PM, lui sono PMR, quelli non servono a niente, se si parli qua in zona, ma se ti sposti che trovi un ostacolo non ci parli più, E così è il baracchino, allora il baracchino riesci ad andare un pochettino di più, ma non assai. Sì, allora quelli hanno un raggio di così, insomma, 10 km, però se c'è un ostacolo non ci passi, non ce la fa a parlare. Sì, ma un baracchio che ci andrà più molto, molto più lontano, ovviamente avendo un'antenna, ecco. C'è un'antenna, come c'è io, c'è Teresa, arrivi lontano. Adesso per esempio io sento gente sotto da fuori, spagnoli, francesi, non lo so, la gamma da giochi, qui sicuramente non li senti sotto a fondo. Per legge non si possono modificare, fare attenzione lì che bisogna fare una tassa. Vai, pronto. perché non si noti più di tanto il buio della fucina. Però fa attenzione, quei contatti devi fare una tassa, se ti trovano, ti muoiono un verbale, ti muoiono di debito. 12 euro all'anno, vediamo chi siano. Adesso noi la dobbiamo pagare a gennaio del prossimo anno. E ti dura un anno. Devi dedicare che uso per fare questi corsi, di questi portatili. No. L'adamatore sta a fare cosa, la sappiglia dell'adamatore. Allora noi che siamo qua, siamo CB. Certo, noi che parliamo a baracchino, siamo CB. Poi l'adamatore è un'altra musica, l'adamatore parla altre, ha il permesso di modulare in altre frequenze, che noi non ci possiamo andare. Possiamo fare solo ascolto, però con, come si chiama, con una licenza per fare ascolto, è un coso, come si chiama, su questo mezzo drumbito, vabbè, un foglio dove c'è scritto, sottoscritto, Tizio e Caio, che posso fare ascolto in frequenze radio amatoriali. K, avanti Black. Aspetta un attimo, andiamo a fare, c'è gente da fuori, avanti, buonasera. Avanti Black, buonasera. Sono preso le mire sotto Porta Bella, che sta facendo il sottoporto. Italia, Italia Sardegna, la città dei Sassari, ok? Ok, mon ami. Io parlare francese, io parlare italiano. Italia, comunque, Italia, la città dei Sassari. My name is Luca Lima Uniform Charlie Alpha, ok? Attenzione, buona mia la frana, mi scusi non di stare in Charlie. Beh, facciamo una mia. My name is Luca Lima Uniform Charlie Alpha, la Italia, Nord Sardegna, ok? Sardegna, Nord Sardegna. Tu vuoi vedere un francese, urla. Buon amico la France, mi scusi qua, Lima Charlie Papa, da qua. Io ti dobbiamo già pescare. Al Francia, a Salina, da pescare. Di Castello, da un Francia. Di Esse, a Lina, o Sia, a Lina, da Eco, al Francia, da Sia. Negativo il passaggio, mon ami, negativo, non parlo francese, negativo, parlo italiano, tu parli italiano. Ciao, vai fra, io non so parlare, vogliamo venire qui a fare pasticci, qualcosina, ma non più tanto. Ciao fra, come sentite a questo? La Francia. Mon ami, la Francia, in Francia. Ok, io Italia, fra nord di Sardegna. La ville Sassari. Ville Sassari, Sierra Alfa, Romeo India, ok? poco cartucciato era. Si è affacciato Franco. Ehi, a francese era. Un bel sacco era, la nuova è qua, sta arrivando un bel forte. Anzi, tu di no, proprio 10 era, da te me ne arrivava 3. Ehi, benissimo, ci dobbiamo tirare lo scuro. Senti a Franco, se non ti alzi domani mattina ti spacca la testa. Tanto mi metto da 31, io arrivo a casa, tanto ci andiamo via presto. Arrivo a casa, dormire, dormire, dolce dormire. Luca, chi c'è questo canale? Io, tu? Le rose. Ma chi sei tu? Cosa? Aspetta, che c'è uno che vuole un controllo. Chi è Rosa? Chi è Rosa, su? Casa per te sono, vai, vieni che c'è mio marito qua. Ah, se tu te lo parli bene, invece non sei altro. Se no, vengo io che c'è dietro le malattie o negli occhi. Ignorante non sei altro, vattene via. Vieni che c'è mio marito, caldo caldo, vieni che ti sta aspettando. Ma poi non ti va a cazzo mai, ti devo con la bassa da bullo io. Sono un handicappato. Ogni tanto entra la già fra, non ci fa il caso, dai. Intanto entra una rompa la scatola. Come sento una donna, là, subito inizia a... Cioè, inizia a comportarsi male. Teresa, Teresa. Si chiama... ma non mi ricordo il nome attivo. Biancaneve. Metti la capo molto bene, Gianfra. Prova, dai, poi vediamo un po'. Ai, ai, ai, Teresa, Teresa. Così, dunque, linea l'aria più vicina a te. C'è metà l'antenna fuori? Quel bastone di scopa che c'ha, si chiama un bastone di scopa, arriva più forte di me. Hai visto tu dove abbiamo noi l'apparato? Se noi ce la facciamo qua, mi stai seguendo dove io sono adesso, e mi giro la testa verso sinistra, lui è lì? No, l'altra via, l'altra via sì, la via, proprio la via principale. La camera d'altra? L'altra terrazza, avanti. Ah, la terrazza. Guardo dritta, a destra o a sinistra? Piazzando giù l'antenna sul tetto. Certo, è lì. Ah? Tu in direzione via Manzoni, più o meno. È vicino a noi, molto, molto vicino a noi, molto, un bel. È più vicino a te, però, in linea d'aria. Da me è vicino, lo stesso, ma da te è più vicino. Va bene. Quando ti arriva, perché? Mi arriva un Santiago di... No. Di 9, buono, buono. Ah, tu guarda, di poco ti passa, sta giù il prodotto. Sì, lui, a me. Certo, certo, è un bel forte arriva, è a fondo scala qua. No, non è vero, un Santiago di 9 mi arriva. Comunque arriva forte, già fai, beh. Allora, lo vuoi questo microfono domani? Sì, portamelo che lo provo. Certo, caricami un rimondetto appresso. Mi fa un bel ridere, no? Io l'ho spiegato come deve fare, comunque non c'è da sbagliare. Intanto non c'è dietro, lo sposta tutto a sinistra, e poi comunque non c'è davanti, con quello ti cambia le voci. Chissà come sarà la voce mia. Non so, la voce della donna, la voce della papina. Clarita. Sono esattamente le 9 meno 5. E ancora 5 minuti e poi. Anna, Anna. Ciao Franco, spostatela questa antenna. Claudio, l'ha applicato. Sì, Giovanni. Giovanni. Ah, è nel mondo dei sogni. Che ne ha fatto, ne ha risata. Oh, yeah, pecca di te. Cazzo, fai, già un flaco passaggio. Arrivi forte, Gianfra, arrivi un bel forte. C'è tu un pochettino più alto di segnale adesso. La radio sopra la flessa, abbassa. Che colore è per te? È un bastone di scoppa, si chiama bastone di scoppa. c'ha radio però. Lo so. Cosa ha Gianfra? Via. Via, via, via. Oh, non ci sono, è poco buia. Io sì, adesso ne voglio più sta nanna. Devo recuperare. No, io non so, se ne abbasso qua, sennò... My name is Luca. Ho fatto un po' con Gattucci, mamma mia. Guarda, lui molto si stava di un bel... Ma bene, mi stavo anche sudando. Guarda, ma ormai avevamo una macchina di Claudio. Ci aveva stata una macchina di Luca, poi era insumata davvero in macchina. Ma c'era la condizionata, stava di un bene, ma bene veramente. Con la sua deve caricare l'aria condizionata. Via, Gianfra. Cerca di avvicinare la bocca al microfono, Gianfra, perché sei molto basso il radio. Cerca del volume dell'audio, se non metti il volume ti faccio la colonnina. Ah, non c'entra niente il campo. Il campo non c'entra niente. Vabbè, ti hanno delle tarature, ma non... Ascolta, dimmi una cosa, la conosco una canale con l'antenna. Cosa ti volevo dire? Qua c'è l'attacco laterale del tubo. Sì, ma non l'hai comprata, l'hanno regalata. Ecco, prima arriveremo il microfono, Gianfra. Prima arriveremo il microfono. Vediamo un po' se riusciamo a procurarne un altro. Così esci più forte, dai. Devo i costi 10 euro, 12 euro, 15 euro, dipende, dai. Già vediamo un po' se riusciamo a procurartene uno, Ah, anche uno normale, scusate voi, il microfono c'ha problemi. Dai, se ti fai trovare, no, lunedì no. Non so, devo far trovare la tuo fratello anche lunedì. Poi ti spiego un po' la situation. Vabbè, al limite trovato presso. Aspetta un attimo attaccato. Così va a parlare con Sabarazzino. Cappa. Non ti preoccupato, ascoltami un'altra cosa, il microfono. Tu sicuramente l'hai inserito o l'hai inserito tu? Lo so, no, io ricevo lo stesso, senza microfono. Questo qua tu danno adesso, l'altro no. Ascolta un'altra cosa, ecco. E quanti buchi è? Mi devi dire, sei maschio o femmina? Via. Maschio. Maschio 5, sì, ho capito. Sì, vabbè, non c'è un problema per quello. Non c'è problema, ascolta un'altra cosa. Ma c'è, qua c'è il pomello, c'è il canale o i tastini? Vabbè, quelli là. Il canale, quello è un canale d'emergenza. Ma fa un culo. Quello è un canale di emergenza. Vabbè, non c'è niente. Non lo usano più tanto. Sì, un canale d'emergenza lì, non so perché cosa lo operavo. Insomma, c'erano le ambulanze. Così è Franco. Franco se ne è andato. Teresa, la vostra Teresa, ci sei ancora? Ehi, siamo qua, dimmi. Lì dirò a Franco, cos'era il canale 9? No, cosa c'era prima? Io non me lo ricordo. Mi sembra che c'era l'ambulanza, così è. Boh, non lo so. L'ambulanza? No. Ma no. Non lo so, Franco. Canale di emergenza, Luca. Ciao, Giulio. Ciao a te. Canale di emergenza 9 è sempre stato, però non si è mai usato. Ma non se ne andato. No, non ti copiamo te, siamo sordi. Luca, ascolta, quando eri a Palmado la stasera mi hai sentito? Ciao intanto. Sì, sì Giulio, allora, attaccato arrivi 2. Attaccato arrivi 8. Ok, no, io parlavo di radio, la radio com'è? Sì, molto bene Giulio, molto bene. Però quando attaccavi non rimanevi leggermente saturo. Invece quando stava a mia madre arrivava a 5, normale. E tu ne raccogli, così fermo. Vabbè, e comunque già va bene Luca. La radio voglio dire era forte, a quello voglio dire, a parte la chiarezza già lo so che è chiara, ma era forte come potenza. Sì, di più. Più o meno di quelli come sentiva mia madre, sentiva a te, dai, più o meno, siamo lì. No, non lo registriamo noi col break, è bello che non lo registriamo. No, niente, negativo, proprio per me no, per me è cancellato, perché la donna non si risponde così. Aspetta un attimo Giulio, siccome qua c'è un vicino di casa, dai, gli hanno legato un baracchino e lo sta provando. Adesso Giulio, vediamo un po', se tu lo ascolti, vabbè, siccome il radio non lo senti, lo sentirai basso, vai Gianfranco, lo senti a Giulio. Riesco a sentire nonostante che io abbia le cuffie e Luca, però come Santiago non ce n'è niente, proprio niente di niente. Vabbè, lui ti ascolta comunque, come lo senti Gianfra? Un basso ma lo senti, vero? Non ce ne sono scuse qua, no? Qua non si a mercato del pesce, qua quando si entra si fa il break. E se non sai cosa vuol dire, prima vai, leggiti quello che devi leggere e poi quando hai imparato entra al baracchino. Cosa vuol dire scusa Teresa? Prima entri, fai l'imbecille e poi chiedi scusa. E mi sei vergognato. Ah, tu baghi, se vai a giocare un'altra parte, qua non c'entri adesso. Visto che ti stai preparando la parte grande. Luca, passiamogli sopra, non ti preoccupare, intanto arriva Santiago 1, a me ti puoi immaginare, riprendi Antonè. Sì, è seguito magari anche da un fiammifero, Antonè, così almeno si lubrifica bene la bocca. Non ti preoccupare, cioè, passi tranquillamente, non ci sono problemi, vai Tere. Ok, basta lasciarlo perdere, nient'altro lo schiacciate tutti, ma fregatemene, va bene, dai, riprendilo. Vabbè, dai, io malincuore devo lasciare, perché mi devo alzare alle 4, domani mattina me vado a pescare. Gianfra, già ci aggiorniamo, mi ha capito chi sono, poi ci sono tutti i problemi. E possibilmente quando parli cerca di non fare cognomi, via, soprattutto, già ti spiegherò io, dai, così... non è facile imparare, ci vuole il diploma, è un giocattolo, perciò è facilissimo, dai. Saluto tutti e niente, a domani, ciao, andiamo a stare qua, se no non mi invece, ciao a tutti, ripeti tutte le. Ok, dai, ciao, ti saluto anch'io, tutte le prossimine, vabbè dai, chiudo anch'io, e niente, saluto Giulio, saluto Antonello, saluto Gianfranco, tutte le prossimine, ok, riprendi Giulio. Ok, ciao Luca, ciao Teresa, allora buonanotte, a domani ci sentiamo. Ripeti a te. Sì, ti confermo io. Vabbè, aspetta Gianfranco, voi non sentite Gianfranco. Gianfranco. Vabbè, non ci più, ciao, ciao, domani, se no mi alzo giù. È un casotto, ciao, ci sentiamo domani. Mi sarebbe piaciuto trattenermi, tanto sono non ho, ma devo, sono costretto a provare, a riposare, se no è un casotto. Ciao. Ok, ciao Luca, buonanotte, ci sentiamo. Beh, se ti devo stare a quell'ora è chiaro che ci siamo vicini, sono già a mezzanotte e 11 minuti dunque. Ok, riprendi Antonè, come mai a quest'ora frequenza? Anche per me è un'ora insolita, e comunque. insieme, se io prendo caffè la sera, poi la notte non riesco a dormire molto presto, arrivo anche alle 2 e forse anche alle 3 di notte, o meglio del mattino, e beh, succede, le ferie finite le hai, ancora le hai, Antonio? Ci vogliono, si sono consumati ormai e non può stare sempre tanto panno, è chiaro. Bisogna farlo, anche quello è una cosa che si deve fare, Antonè. D'altronde, i figli bisogna anche accontentarli, bisogna correggerli, ma bisogna anche accontentarli. Non accontentano i figli, cosa vuoi fare? Sono passati i tempi che abbiamo vissuto, perlomeno che ho vissuto io, non c'erano possibilità, c'era tutta un'altra mentalità, e dunque i contentini non te li davano, anche perché non te li potevano dare, capito Antonio? Oggi invece è tutto diverso, è chiaro che noi genitori dobbiamo fare di tutto per accontentare i nostri figli. Beh certo, non è certo un disonore, uno che si guadagna il pane è chiaro che va con la cassettina di ferri e anche con la tuta se è necessario, proprio perché deve disimpegnarsi nel lavoro, certo. I cilindri quali erano, serrature di sicurezza oppure quei cilindri normali tipo Yale o eccetera eccetera? Io li uso naturalmente sul legno, tu li usi sul ferro, è diverso. Cioè è diverso. Il procedimento della serratura è sempre quella, il montaggio non fa una grinza, è sempre uguale, trattandosi sia dell'una che dell'altra serratura, non ci sono problemi, però voglio dire, mentre invece quando mi chiamano a me per fare certi interventi, così io se il cilindretto è di quelli normali, col trappano, buco, faccio saltare i pistoncini e apro con un cacciavite, va bene così. Mentre per gli altri è un pochino più difficile, bisogna tagliare la mappa, una parte della mappa della chiave, e poi può anche sbloccarsi la serratura, però a quel punto la serratura vuole sempre nuova, è chiaro, no? Sì, quelli quando si bloccano, no? Hanno un problema, cioè se tu infili la chiave sua normale, il discorso è che non si riesce a farla girare, perché magari qualche ingranaggio dentro, qualche denticello si oppone, diciamo, pensiamola così. Allora tagliando una parte della mappa, perché ha la doppia mappa con la chiave, con le serrature, no? E si può sbloccare, però poi ci vuole la serratura nuova, chiaramente. È molto attrezzato Mula prima faceva il falegname, prima che si piantasse questo negozio di ferramenta, capito? Io già lo conosco e dunque lo conosco benissimo, anzi sì, però è un po' esagerato quei prezzi, mi sembra, eh? Ad ogni modo, ad esempio per il ricambio motore ce li ha anche Palmieri, ce li ha anche loro, sono in grado di cambiare tutte quelle latrine che ci sono dentro, o meglio ti danno il pacchetto che puoi cambiare anche tu, costano molto di meno di quanto ti fa pagare Mula, però diciamo che Mula è più attrezzato perché ha tanti tipi di serrature e c'è più probabilità magari di risolvere il problema quando vai con una serratura già usata, capito? sì, perché lui risale poi al tipo della serratura ed è in grado di fare qualcosa, già lo so, sì. Appunto, ripeto, è molto attrezzato, un mulo è molto attrezzato, si fa pagare, però tutto sommato diciamo che a quei livelli c'è solo lui, che sa se ed è anche giusto se vogliamo farsi pagare un pochino più degli altri, capito? Perché gli altri intanto non sono nemmeno in grado di servire un cliente che ha certe pretese. L'unico che ci può essere Palmieri, ma non più di tanto, però Mula è senz'altro molto ma molto più avanti con il fatto di serrature. Senza, a differenza magari di tutto il resto dell'estate, che non ho suonato così tanto come ho suonato stasera.